Da quel momento egli iniziò a divenire l'oggetto della sua perplessa attenzione. Senza dubbio si stava comportando molto diversamente da quanto soleva fare a Kökensee, ed ecco che le splendide isole Borromée scivolavano via lontano. Oramai il battello le stava superando, escludendole per sempre dalla sua vita. Sì, era davvero molto improbabile che le avrebbe mai riviste. A Ingram, in quel pomeriggio plumbeo, il lago appariva come un sarcofago e le sue isole grigie e desolate come tre chiodi conficcati nel suo coperchio. A Ingeborg, invece, esse apparvero come tre miracoli divini. Similmente a ogni viaggiatore neofita, disposto a rinunciare a Roma per fermarsi a Calais, anche Ingeborg agognava accurate esplorazioni di ogni nuovo luogo, ma solo per venirne inesorabilmente trascinata via. Le isole Borromée erano magnifiche, ma se anche fossero state prive di ogni attrattiva, ella avrebbe ugualmente desiderato visitarle. Belle o brutte, erano comunque diverse da Kökensee. Nel riporre tutte le proprie speranze su Milano, l'esperto viaggiatore Ingram non si era ancora capacitato di quanto fosse possente in Ingeborg il richiamo del nuovo dopo la vita monastica condotta a Kökensee. La stazione di Arona, la campagna piatta che il treno attraversava, le fabbriche, la periferia di Milano, le strade rumorose ove pulsavano e riecheggiavano i suoni e il calore di quel pomeriggio di nuvole grigie e basse, la forma delle cose, anche di quelle più insignificanti come i tram e i taxi, le figure delle lavandaie, le vetrine, i movimenti e i musi dei cani, le movenze dei bambini, gli occhi degli italiani tutti puntati su di lei, che la imprigionavano nel loro sguardo. Tutto la affascinava e l'assorbiva come lo svolgersi di un vivido sogno. Chi erano quelle persone e che cosa avrebbero fatto dopo ciascuna di esse? Che cosa provava, pensava o diceva? E dove si stava dirigendo? Che cosa aveva mangiato per colazione? Com'era la casa che aveva appena lasciato? Che genere di oggetti teneva nel proprio cassettone? Se solo uno di loro mi prestasse il suo cassettone, esclamò rivolgendosi a Ingram, e mi lasciasse sola con il suo contenuto. Credo proprio che nel momento in cui avessi finito di esaminare tutto quanto, conoscerei quell'italiano alla perfezione. Ogni cosa, assolutamente tutto. I desideri della sua anima e del suo corpo, qual è il suo lavoro, quali i passatempi a cui si dedica, i cibi che predilige e persino che cosa spera di trovare dopo la morte. E lui, che a giudicare dal suo silenzio mentre gli camminava a fianco, aveva pensato che trovasse Milano insignificante. Precipitosamente la trascinò via dalle strade più animate per condurla in una sala da tè inglese. La fece sedere con le spalle alla vetrina e ordinò delle fette biscottate. Ma poiché Ingeborg era avvezza a quel gusto fin dall'infanzia, a palazzo le fette biscottate venivano tenute in una certa considerazione, in quanto non troppo buone, non troppo dolci, scoraggiavano una peccaminosa ingordigia. A Milano esse fallirebbero nell'esortare alla sobrietà. Le divorò a sazietà, con piacere, riuscendo però a mantenersene distaccata e non lasciandosi contagiare dalla mortificazione dello spirito che lui aveva sperato di ottenere in lei ordinandole. La loro secchezza non mitigò in alcun modo la sua sconfinata curiosità. Le reminiscenze di quel sapore non seppero acquietarla, nemmeno quando esso si mescolò al suono delle campane che andava diffondendosi al di sopra dei tetti. Avrebbe potuto benissimo essere a Rochester con tutte quelle fette biscottate e quelle campane domenicali che suonavano a festa. Nel locale deserto, seduto di fronte a lei oltre il tavolo dal piano in marmo, Ingram decise che a Milano nessun pasto sarebbe stato più divertente di quello. Fintanto che lei l'avesse costretto a tenerla in quella città, tutti i pasti, eccetto le colazioni, sarebbero stati consumati in quella sala. Pasti modesti, che deprimevano l'anima e che a lungo andare avrebbero di certo contribuito ad ammansirla, dato che il piatto più entusiasmante del menù, come veniva annunciata alle sue pareti, era costituito da uova in camicia. La trattenne nella sala più a lungo che poté, quando ormai il tè era freddo, tentando di corteggiarla persino in quel luogo di panini, per provare in qualche modo ad arginare il ritardo che il suo comportamento, così peculiarmente immaturo, stava causando sul regolare sviluppo della loro fuga. Ma com'era difficile! Anche lui non si era nutrito che di fette biscottate. Aveva ogni intenzione di dirle che l'adorava, ma quando le sue parole oltrepassavano la teiera, giungevano a lei sotto forma di commenti sulle stranezze del suo comportamento. Desiderava dirle che il suo corpo era delicato come un fiore, incantevole come l'aurora, ma ciò che usciva dalle sue labbra erano critiche riguardo alla quantità e soprattutto alla qualità dei suoi entusiasmi. Voleva intessere le lodi della sua anima, della parte più recondita, inesprimibile, illuminante, comprensiva e dolce del suo spirito. ma si ritrovava invece a deprecare in toni acidi la foggia dei suoi vestiti. Ingeborg, seduta, lo ascoltava con un solo orecchio, gli occhi lustri dal desiderio di essere al più presto fuori per strada. Era impaziente di uscire dal locale, dispiaciuta che egli avesse scelto proprio quel momento per fumare tutte quelle sigarette. Persino la giovane donna che stava a guardia dei dolci sembrò pensare una permanenza basata solo su un ordine di tè e fette biscottate fosse durata abbastanza. Pertanto si avvicinò, sparecchiò la tavola e chiese in inglese, essendo quella la sua lingua d'origine, se poteva portar loro qualcos'altro. Ciò che più mi colpisce è la curiosa mescolanza presente in te, esordì Ingram con l'intima intenzione di paragonarla a un faro nella notte, ma fallendo all'istante nel realizzare i suoi buoni propositi. Di una vena di infantilismo e una di spasmodica maturità. Mentre un attimo prima ti comporti in modo assolutamente assennato e ragionevole, l'attimo dopo appari del tutto impulsiva e irresponsabile. E in un frangente ancora diverso sei maestosa nel tuo coraggio e temerarietà. E quando sarei stata maestosa nel mio coraggio e temerarietà? Chiese lei, sforzandosi di prestare maggiore attenzione a ciò che lui andava dicendo. Quando hai lasciato casa tua per raggiungermi? Quell'inizio è stato spettacolare. Chi avrebbe mai pensato che potesse deteriorarsi fino ad arrivare... Beh, a questo. Trovate sia deteriorato? Non state forse? Chiese sporgendosi oltre il tavolo con aria un po' ansiosa. Per sgridarmi? Al contrario. Sto cercando di spiegarti quanto tu significhi per me, disse Ingeborg, e di spiegarti anche il mio desiderio di isolare le vene presenti in te di cui dicevo poc'anzi. Vene? Sì, proprio come fa un'ape quando ricopre di cera il cadavere di un invasore. Il cadavere di un invasore! Vedi, io non credo che un singolo episodio di eversione, o anche più di uno, possa condurre a un destino di dannazione. Siete proprio sicuro di non starmi sgridando? Chiese di nuovo. Con una nota d'ansia nella voce. Niente affatto. Sto contemplando e tentando di aggrapparmi al più recondito anfratto della tua anima. Ah, ribatté Ingeborg. Credo che queste vene, componenti e chiazze che appaiono sullo strato più superficiale del tuo io, possono in ultima analisi risultare utili, salvarci con il loro potere dirompente dal cadere nelle acque ristagnanti della ripetizione dell'indifferenza. Lo fissò sconcertata, le labbra leggermente dischiuse. Lui si accese un'altra sigaretta. È come, prese a spiegare, lanciando il fiammifero acceso in un angolo lontano dove fu raggiunta all'istante dalla giovane donna che lo estinse pestandolo, con un moto di risentimento e rimprovero. Come trovare in giardino una pentola d'oro, ma essere solo in grado di sbirciarla di tanto in tanto e dover continuare a lavorare duramente per 11 scellini a settimana. Ingeborg continuava a fissarlo in silenzio. Anzi, nemmeno per 11 scellini, proseguì riflettendo su ciò che aveva sopportato. Lavorare duramente per non guadagnare nulla. Lei si sporse di nuovo oltre il tavolo. Non lo faccio apposta a essere indisponente, si scusò. Stella mia, le rispose lui in tono accorato. La mia indisponenza è sempre involontaria, spiegò lei con grande partecipazione. Sì, assolutamente involontaria. È per via della mia scarsa personalità e di tutti i difetti meschini del mio carattere. Ingram fece cadere la cenere dalla sigaretta con eccessivo vigore, come se al posto di questa vi fosse il frammento del corpo di un parente particolarmente molesto. So di essere immorale, negligente, disattenta, continuò Ingeborg, che quando si trattava di aggettivi era sempre accurata. Già, estremamente irritato. Si stizzì ancora di più per dover stare ad ascoltarla mentre si disprezzava in modo abbietto, proprio come si era stizzito per ogni azione che lei aveva compiuto in quella giornata. Se provocato, a lui era concesso farle notare i suoi punti deboli, ma che fosse lei stessa a parlarne non lo sopportava. Lui voleva soltanto amarla, ma lei insisteva nell'impedirglielo. Com'era esasperante avere una dea che rifiutava di starsene tranquilla sul suo piedistallo, che si ostinava nel saltar giù per mostrarti ogni suo difetto e chiederti perdono. Come poteva corteggiarla se persisteva nel comportarsi a quel modo? Sarebbe stato come cercare di corteggiare un libro di preghiere. E forse perché domenica? Che ti senti spinta a riconoscere e confessare i tuoi peccati? Le chiese. Mi fai sentire come se il sagrestano fosse appena passato e mi avesse rispedito alla mia panca. Beh, ma io sono davvero immorale, negligente e disattenta, insistette. E invece no, ribatté lui in tono adirato. Non ti ho forse detto che sei la mia stella, il mio miracolo? Sì, ma ti dico, disse determinato anche egli stesso a crederci, che tu sei per me l'acqua in cui bramo immergere e rigenerare il mio spirito affaticato. Come siete gentile, gli disse, gentile come un fratello. A volte penso davvero che voi siate come un fratello per me. Non ho mai avuto un fratello, ma penso che se ne avessi avuto uno, voi gli somigliereste parecchio. Quell'idea le riscaldava sempre più. E come se foste mio fratello, sento che, proseguì lanciandosi con ardore nei consueti entusiasmi. Egli però la interruppe alzandosi in piedi. Mi sembra un vero spreco, dichiarò afferrando il cappello, parlare di fratelli, visto che non ne hai. Vogliamo andare? Ingeborg balzò all'impiedi con l'aria di chi esce da una prigione. Anche Ingram non sopportava più la sala da tè, altrimenti ci sarebbe rimasto ancora. Uscendo in strada, egli notò con aria afflitta come lei apparisse ancora più trepidante ed eccitata di prima, oltre che del tutto fresca e riposata. Con pari scorno si accorse nelle 2 ore successive che Ingeborg amava l'architettura. Peccato che si soffermasse sempre davanti agli esemplari più brutti. Sempre più abbattuto, scoprì in lei una passione per qualsiasi oggetto, anche il meno riuscito, purché forgiato in ferro. Era letteralmente impossibile scollarla da terra ogni volta che giungevano a uno dei cancelli di ferro battuto all'ingresso dei numerosi palazzi. Come odiava i brutti cancelli lui! Priva di qualsiasi esperienza, Ingeborg non aveva alcuna possibilità di confrontare, né tantomeno di operare una selezione. Il suo entusiasmo era onnicomprensivo e indiscriminato come quello di un bambino. Con un grande sforzo, Ingram evitò di transitare per Piazza del Duomo, ma disgraziatamente, dopo aver imboccato una via che, pur non dandone l'impressione, serpeggiava attorno a quella piazza centrale, alla fine, quando già credeva di essersi portato a una distanza ragguardevole, in un attimo di disattenzione, vi sbucarono proprio di fronte. Sperando che lei non notasse la cattedrale, la spinse per il gomito, esortandola nervosamente ad attraversare la piazza in tutta fretta. Ma essendo una cattedrale difficilmente sottraibile alla vista, Ingeborg, come egli aveva temuto, rimase di nuovo immobilizzata dalla meraviglia. Ingeborg, non mi verrei a dire che ti piace quella? Oh, vi prego, lasciatemi guardare! Lo implorò in toni accorati, trattenendolo per la manica mentre tentava di condurla via. È così strana, così diversa! Ingeborg la richiamò, quasi pregandola, ma lo spostarsi dall'esterno della cattedrale al suo interno fu un passo inevitabile, così come fu inevitabile, una volta dentro, il dover assistere allo spettacolo di Ingeborg che, trattenendo il respiro, osservava rapita tutto quello splendore. Ingram si ritrovò a fare il turista, ad ammirare le vetrate, a seguire Ingeborg sotto le imponenti volte, a farsi rimorchiare dai sacrestani. In quel luogo si passò le mani fra i capelli con vigore più volte. Tutto questo è intollerabile, esclamò se stesso a voce alta. Impazzirò! E con possenti falcati raggiunse Ingeborg, acciuffandola per il braccio proprio nell'istante in cui stava scomparendo oltre i gradini della scalinata che scendeva verso la cripta. Ingeborg, vuoi forse dirmi che non ti raggiungerò mai? Che non ti avrò davvero mai tutta per me se non quando ti ritrarrò? Lei si girò nella penombra e lo fissò. Oh, certo! Allora ti avrò tutta per me! Proseguì in tono concitato mentre il sagrestano, interrotto nella sua esposizione, produceva uno sferragliare di chiavi atto a esprimere tutta la sua impazienza, dato che, come sai, non posso certo dipingere il tuo ritratto da solo. Lei continuava a fissarlo a occhi sgranati. Tutto quello che stai facendo, tutto questo tempo sprecato per correre qua e là, significa che hai già dimenticato il quadro? Fu come se egli l'avesse afferrata e scrollata, risvegliandola di colpo. Lo fissò sconvolta da quel sussulto di reminiscenza. Ma certo, il quadro. Beh, era incredibile, ma se n'era dimenticata. Dimenticata del tutto, presa dalla smania selvaggia del viaggiare. Riconobbe che lui aveva ogni ragione. Lei, che aveva solo 10 giorni di tempo, aveva insistito per fermarsi in ogni nuovo luogo e pensare che era partita solo per via del ritratto, di quella grande opera, della prima cosa davvero grandiosa che avesse sfiorato la sua esistenza. Si rivide trascinare a destra e a manca, lasciandolo in forzata attesa lui, il suo creatore, il suo mentore, l'artista che avrebbe forgiato la bellezza del futuro con le sue mani abili e scaltre, colui che avrebbe elevato la sua arte al di sopra della cozzaglia prodotta da una moltitudine di imbrattatele, un guazzabuglio gli ha lasciato a pesare sulle spalle delle generazioni a venire. Come poteva causare tutto quello scempio soltanto per soddisfare la sua curiosità? Una curiosità ottusa, ignorante, che faceva sprecare tempo prezioso e che ridicolmente osava bloccare il passo a qualcosa di immenso, al più grande capolavoro mai realizzato dal più famoso degli artisti. Quei pensieri la ricondussero immediatamente alla sobrietà. Si sentiva sopraffatta dal riconoscimento bruciante dei suoi troppo facili entusiasmi. Oh, disse, osservando Ingram a occhi sgranati, piena di vergogna e completamente riportata alla realtà. Come siete stato paziente con me? E poiché Ingram, fermo sul gradino superiore, la tratteneva per il braccio, fissandola con sguardo indignato, ella non trovò altro modo per esprimere ogni sua vergogna e contrizione, se non chinando il capo e poggiandogli la guancia sulla mano. Capitolo 35. Rimasero lì, ai piedi delle scale che conducevano alla cripta, per quello che al sagrestano parve un lasso di tempo intollerabile. La donna, che chiaramente non era la legittima consorte, con la guancia appoggiata sulla mano dell'uomo. Lui, un onesto sagrestano, che desiderava solo intascare la sua mancia e allontanarsi, veniva trattenuto senza che potesse far nulla se non imprecare tra sé e agitare il suo mazzo di chiavi. E benché fosse estate, la cripta era fredda e tra un po' lo sarebbero stati anche i suoi piedi. E che cosa mai ne sarebbe stato del mondo, ora che le coppie iniziavano a portare le proprie fusioni fin dentro alle cripte? Esasperato da quel ritardo, maledisse sottovoce entrambi. Maledisse il loro presente, passato e futuro, completamente, accuratamente, e data la benché poca santità di quegli epiteti, anche profanamente. Mi spiace tanto, tantissimo, mormorava Ingeborg, che in fatto di penitenza, umiltà o gratitudine non lasciava mai le cose a metà. Bambina mia adorata, sussurrò Ingram, immensamente commosso dal mutamento repentino avvenuto in lei e cambiando repentinamente egli stesso opera della morbidezza di quella guancia sulla mano. Non dovremmo partire per Venezia questa notte stessa? Gli chiese ancora immobile in quella postura apologetica così bizzarra e commovente. No, non questa sera. Ma com'è possibile dipingere un quadro in così poco tempo? Ah, ma tu sai che sono bravo a dipingere. Ricordate che non posso restare nemmeno un minuto più tardi di giovedì. Entro sabato devo essere a casa. Ce la faremo, vedrai. Se penso che avevo dimenticato il quadro, esclamò, sollevando su di lui uno sguardo costernato, mentre l'antica umiltà saldamente inculcata dall'addestramento del vescovo, questa volta almeno quadruplicata, iniziava di nuovo ad avvilupparla, alla stregua di un indumento allargatosi a dismisura dall'ultima volta che lo si è indossato. Per qualche motivo essi seguitavano a bisbigliare e il sagrestano, esacerbato, perdendo il proprio autocontrollo, iniziò a produrre i propri commenti in modo del tutto udibile. Certo dell'ignoranza dei turisti in lingua italiana, disse esattamente ciò che pensava e i suoi pensieri erano così malevoli, così inappropriati a un sagrestano e all'atmosfera di una cripta, oltre che assolutamente offensivi da un punto di vista personale, che finirono per provocare Ingram, il quale conosceva l'italiano quasi meglio di lui. Il suo italiano, infatti, comprendeva nozioni non indifferenti in fatto di vituperio, bizzarre e curiose torsioni linguistiche non certo alla portata di chi non era altrettanto istruito. All'improvviso Ingram riversò sulla testa del sagrestano una raffica interminabile di incandescenti ingiurie e una volta terminato si voltò, prese Ingeborg per mano e dopo averla di nuovo condotta in cima alle scale, lasciò il sagrestano raggrinzito ammutolito ai piedi di esse. Dopo, non pensarono a cripte o a sagrestani. Non guardarono più né a destra né a sinistra. Ingram la tenne per mano mentre percorrevano la navata avviandosi verso l'uscita e una volta sulla grande piazza la folla di persone vociferanti, tram che scampanellavano e venditori di souvenir non apparvero a Ingeborg altro che soggetti rumorosi ma totalmente irrilevanti. Moltitudini di cartoline le si spiegavano sotto il naso, ma lei non le notò. Lo scopo del viaggio era il ritratto. Incredibile che avesse potuto dimenticarsene e dimenticarsi della felicità e dell'orgoglio di essere necessaria alla sua realizzazione, necessaria finalmente per qualcosa, necessaria a qualcuno, lei che l'aveva sempre desiderato. L'essere indispensabile per il compimento di questa particolare opera, poi il dover agire come un vero collaboratore, sebbene in tutta umiltà e con un ruolo passivo, la riempiva di gaudio. Ingram la mise su un taxi e la condusse via dal baccano e dal trambusto. Ingeborg era tornata ad essere una compagna squisita, anzi totalmente adorabile. Il ricordo del malumore e dell'irritazione di quella giornata era stato cancellato, come se questi non fossero mai esistiti, dal dolce ricordo del suo pentimento sui gradini della cripta. E Essendo ormai sera, ordinò all'autista di condurli in quel parco pubblico descritto nella guida come il più bello d'Italia. E poco dopo, mentre passeggiavano nei suoi più remoti recessi, il crepuscolo scese come un sipario tra loro e la grande folla della domenica sera che andava raccogliendosi attorno alle fontane. Tronchi secolari, siepi di bosso e cespugli di rose precludevano ogni cosa alla loro vista, eccetto che un'aura di mistero. E lei, in quel luogo di pace, di acqua gorgogliante e di fiori dai pallidi petali, ricominciò a parlargli come era avvezza a fare a Kökense, con parole carezzevoli e deliziose alle sue orecchie, dato che trattavano di un solo argomento. Lui. Ed egli, finalmente, aveva la sensazione di riposare all'ombra di un masso imponente in una landa assolata che gli regalasse infinito refrigerio e sollievo. Lei parlava del ritratto con reverenza, in toni adoranti, le disse come per l'accavallarsi di tante nuove impressioni si era dimenticata di quel che contava davvero e non solo, ma anche di ringraziarlo per tutte quelle altre cose che solo grazie a lui aveva potuto assaporare, come l'Italia e quella vacanza inaspettata. Gli disse con la sua voce un po' roca, resa ancora più carezzevole per la gratitudine: «Mi avete donato felicità e poi ancora felicità. Avete cosparso felicità sulla mia esistenza a piene mani». Indy aggiunse, cercando parole che fossero abbastanza dolci: «Il pensiero di tutto quello che siete stato per me da quando siete arrivato a Kökense, potrebbe farmi piangere. Una volta a casa, il ricordo di questi momenti sarà per me come una pietra preziosa, e quando sarò tenebrata dalla noia e la vita mi apparirà piatta e insignificante, la preleverò dallo scrigno e la ammirerò. Allora i suoi bagliori di luce e colore mi consoleranno». Quando mi dici queste cose, mi fai pensare a uno spirito palpitante che ritorna in un corpo esanime dimenticato. Davvero, mormorò lei, felice di essere ancora capace di compiacerlo e deliziata che le parole di lui si intonassero perfettamente al suo desiderio di fare ammenda. Quando mi dici queste cose, aggiunse, l'esistenza diventa così felice che nelle sue più imperscrutabili profondità si ammanta di oro. Tu possiedi l'animo che ho sempre cercato, lo spirito che giunge a me attraverso una finestra di vetro policromo, che mi illumina e mi accende un dolce fuoco nel cuore. E il pensiero di voi, il ricordo della vostra persona quando sarò tornata alla mia vita di sempre, sarà come una finestra incorniciata di tralci di rose in una parete grigia e anonima, ribatté Ingeborg, prendendo a prestito la sua immagine, come così spesso accadeva con grande dispetto di Ingram, per riofrirgliela ulteriormente infiorettata. Questa volta però. La cosa gli fece piacere. Come se potessimo mai separarci, come se amare una persona lontana miglia e miglia non fosse un dolore impossibile da sopportare. Oh, mia cara, perché mi guardi in questo modo? Le chiese in modo così franco e spontaneo che la fece vergognare per aver mostrato tanta sorpresa. È forse perché parlo d'amore? Perché due persone non possono amarsi e confessarlo apertamente? E se ti amo non è certo con l'avida possessività con la quale ha amato altre donne prima di te. Bensì con il sentimento di chi ammira la luce frangersi su un cristallo, l'aria tersa dopo una pioggia, l'emozione che sgorga di fronte alla bellezza insita nelle cose delicate e profonde, si è personificata ed esaltata in te. Ingeborg accennò un piccolo gesto deprecatorio. Era davvero molto gentile con lei, troppo gentile. Nessuno comunque poteva avanzare obiezioni per essere amata come un cristallo o come la purezza dell'aria dopo la pioggia. Di certo a Robert quelle parole non avrebbero dato alcun fastidio. Annaspò alla ricerca di parole adatte per rispondergli, parole splendide che eguagliassero le sue, ma egli le aveva già trovate tutte prima di lei. Era impossibile tenergli testa. «Sei preziosa e delicata come traslucida filigrana», le disse, «e sei coraggiosa, poliedrica, viva. Sei piena di teneri dolci pensieri fantasiosi, di piacevoli mutazioni di temperamento, di tratti di carattere garbati e curiosi. Mai più nella vita mi capiterà di incontrare un'altra occasione di felicità così profonda come quella che tu rappresenti. Pertanto ripongo il mio cuore una volta e per sempre nelle tue piccole, graziose e sicure mani». Ingeborg si sentì cedere sotto il peso di tanta generosità, lei che era stata tanto indisponente, e non solo indisponente, ma anche piena di dubbi, dubbi del tutto immotivati, ora si avvedeva, che erano affiorati alla superficie del suo assurdo rapimento per l'Italia. Come quello stesso giorno, per esempio, verso l'ora di colazione, quando aveva temuto di non riuscire a compiacerlo in alcun modo. «Ora comprendo», proseguì Ingram, «di non avere mai davvero amato prima d'ora. Ho giocato con le bambole, spartito i miei pensieri con ciechi manichini, alla stregua di un bambino che volendo giocare a palla, ma non avendo un compagno, la tiri contro un muro per poi riprenderla al volo». Ma tu rispondi al mio tiro, tu, mio cuore palpitante. Ingeborg si sentì invadere da una sensazione di lieta sorpresa. Oh, le cose che aveva fatto senza accorgersene. Sembrava proprio che fossero state quelle giuste per tutto il tempo. Rispondere ai suoi tiri, essere all'altezza delle sue aspettative. Ed episodi come quelli passati quando erano alle isole Borromee o quando lei era rimasta incantata davanti a tutte quelle cartoline, per non menzionare anche il momento di malumore da poco trascorso nella sala da tè, in realtà non significavano quello che lei aveva paventato. Non aveva capito, gongolava al pensiero di non aver capito. La vita mi ha stancato e mi ha afflitto parecchio ultimamente, seguitò parlando in toni bassi, frementi. Mi è apparsa come un'insormontabile questione spinosa, intrisa di gelosie, vergogne, inganni, di lavoro che delude le più alte attese, di incessanti processioni di persone che vanno e vengono, lasciandomi sempre più scornato. Ma ecco che ora sei giunta tu, come una ventata sferzante che spazza via tutta la polvere, come un cielo terso, come la luna che spunta prima del tramonto. È come se tu avessi preso un pennello e, cancellando ogni bruttura, avessi tratteggiato a nuovo la mia persona, usando le più luminose e chiare tinte di acquerello. La sorpresa di lei crebbe a dismisura, così come la sua gioia per essersi sbagliata. Con le mie vene e chiazze, rievocò la sua mente. Allora non pensava davvero quello che ha detto. In qualche modo, e sempre pensando di utilizzare la mia mente per fini meritevoli, continuò Ingram, sono stato superficiale e duro nel giudicare ogni cosa. Ora invece sento l'amore scorrermi nel cuore come un fiume profondo e tranquillo. Sento di amare tutto perché amo te. Sento di potermi dar da fare per rendere felici gli altri, di poter dire parole, compiere gesti generosi perché serbo in me questo sentimento splendido. Quel sagrestano, pensava intanto lei. Allora non parlava sul serio nemmeno quando lanciava quegli insulti al sagrestano. Tu rappresenti ogni cosa che ho cercato in una donna durante tutta la mia vita. Tu sei ogni mio sogno divenuto realtà. Prima avevo compiuto solo pallidi tentativi di amare, adesso invece sei arrivata tu e mi hai reso capace di amare davvero ciò che tutti sognano di fare. E mi hai dato vero amore, ciò che tutti sognano di avere. Il piacere che provava si tinse di leggero disagio, dato che non avrebbe mai pensato, se avesse formulato tali pensieri da sola, di aver dato amore. Le mogli dei pastori non davano amore se non ai loro mariti pastori. Amicizia sì, era certo di aver elargito una calorosa amicizia, nonché una disperata ammirazione per il suo ineguagliato talento, per non parlare poi dell'orgoglio e della gratitudine che aveva provato, quanto per il fatto che lui piacesse stare con lei e per tutte le cose deliziose che le diceva sempre. Ma amore? Aveva creduto che l'amore fosse qualcosa riservato unicamente agli innamorati. Se a lui proprio faceva piacere definirlo in quel modo, non bisogna essere bigotti, era molto gentile da parte sua, ma la cosa più straordinaria in assoluto era l'essere stata capace a donare tutto ciò che ora lui stava elencando senza nemmeno accorgersene. Tutte quelle buone azioni, compiute a sua insaputa e rilevatesi così all'improvviso, la lasciarono sconcertata. È mai possibile, si domandò con meraviglia, che sia davvero così dotata? E proprio come se avesse letto nella sua mente la parola innamorati, anche Ingra l'articolò. Gli altri innamorati hanno pronunciato la promessa di adattarsi servilmente l'uno all'altro sino alla fine dei loro giorni, disse. La promessa di cosa? Credeva egli stesse per dire pronunciato la promessa di unirsi in matrimonio, dato che già dai tempi di Rochester sapeva, nonostante in casa si prestasse parecchia cura a non menzionare mai certi argomenti, che a questo mondo esistevano persone malvagie che si amavano al di fuori dei sacri vincoli del fidanzamento, del matrimonio, talvolta addirittura senza essere state presentate come si conveniva, persone che dopo venivano punite dai regolarmente fidanzati o maritati, non venendo più invitati ai tè. Una volta il vescovo, credendo che Ingeborg fosse fuori dalla stanza, aveva tranquillizzato un turbato interlocutore dicendogli che grazie all'infinita misericordia divina tali persone erano presenti sulla Terra in numero trascurabile. Ingram non le badò. Noi invece no, proseguì. Noi? Gli fece colei. Beh, se proprio non intendeva quella parola in senso lato. Noi siamo conformi l'uno all'altro, affermò. E non solo siamo conformi, ma ci riflettiamo l'uno dentro l'altro. Io nel mio cuore, tu nel mio, come due specchi appesi a pareti opposte, che che rimandino l'immagine dell'altro all'infinito. Nella mente di lei si fece strada un interrogativo. Qual era il tornaconto di tanto parlare di cuore di amore? Per il momento però mise a tacere quel tarlo, ricordando quanto fosse ancora peggiore il cantico di Re Salomone. Sì, conformi, ma al contempo rispettabili, aggiunse lei, formulando a voce alta il proprio pensiero, secondo i dettami della Chiesa. Rispettabili? Vieni, sediamoci su questa panca accanto al cespuglio di rose, la invitò. Guarda, in questa luce così tenue le corolle sono pallide e delicate come te. Sto pensando al cantico di Re Salomone. Mi è appena venuto in mente. Mi capita a volte, aggiunse a disagio, iniziando ad acciuffare le prime parole che le capitombolavano per la mente. Si sedette sul bordo della panca, rimanendo ferma nel punto in cui ce l'aveva messa lui. È di pietra, gli comunicò nervosamente, sollevando gli occhi per guardarlo, dato che lui aveva fatto un passo indietro e la stava contemplando, la testa inclinata da un lato. Pensate sia adatta? Tu, piccola perla, mormorò osservandola, mia piccola deliziosa innamorata. Le mani di lei afferrarono convulsamente il bordo del sedile. All'improvviso cadde in preda a un determinato insopprimibile desiderio di rivedere Robert. Oh, ma esordì, poi esitò. Indi tentò nuovamente. È molto gentile da parte vostra, ma sapete, non credo che. Che cosa non credi, cara rivelatrice di me stesso? Tu che mi hai ricreato da zero, che mi hai restituito l'anima. Oh, anche Salomone, balbettò aggrappandosi sempre più forte al sedile, diceva parole simili, però avevano un altro significato. Ma qui non si tratta forse di un'altra cosa? Una cosa, beh, diversa, dato che io non sono la Chiesa. Mi dispiace tanto, e sentano di accusa di non essere la Chiesa. Perché se così fosse, allora non vi sarebbe alcun problema. Intendi dire che non vuoi che io ti chiami mia innamorata? Beh, io sono una donna sposata, disse con il tono di colei che si scusa di dover portare l'attenzione su un fatto simile. È innegabile, da lì non si scappa. E invece, noi siamo scappati, dichiarò Ingram con forza sedendosi accanto a lei e prendendole la mano abbarbicata al bordo del sedile in pietra per iniziare a baciarla. Ingeborg era ormai in preda a un disagio e a una costernazione estremi. È proprio così, continuò, baciandole la mano con movenze sublimate dal trasporto che tanta passione suscitava in lui. Tu, mia coraggiosa piccola perla di bellezza, devi pur comprendere. Non puoi non comprendere quanto completamente e gloriosamente tu abbia lasciato dietro di te terra bruciata. Terra bruciata? Gli fece eco Ingeborg. Lo fissò per un istante, poi con un sussulto nella voce aggiunse: Ma quale terra? Ingeborg, Ingeborg, mia purificazione, mia salvezza, mio tesoro, mia realtà, mio coraggio. Salmodiò Ingram, deponendo baci su baci sopra la sua mano tra una parola e l'altra. Sì? Ribatté ignorando quelle declamazioni. Ma quale terra? Mia forza, mio aiuto, mia amica, mia sorella, mia amante, mia immeritata compagna. Sì, d'accordo, ma non potreste fermarvi un attimo per cortesia? Sarebbe davvero utile se vi fermaste un attimo e mi diceste di quale terra state parlando. Egli si interruppe per cercare i suoi occhi nel buio, occhi fissi su di lui, il cui sguardo esprimeva una concentrazione di interrogativi che scavalcavano i suoi altisonanti tributi, accantonandoli come insignificante ciarpame. Mia piccola bambina adorabile, disse mentre ancora la tratteneva la mano, pensavi davvero di poter ritornare? Davvero pensavi di poterlo fare? Ritornare? E dove? In quell'indegno mucchio di letame, Kirkense! Ingeborg lo osservò. Immersi nel crepuscolo, i loro visi ravvicinati apparivano lattei, mentre gli occhi che si fissavano a vicenda sembravano spettrali pozze di oscurità. E perché non dovrei ritornare? Chiese. Perché tu, mia piccola eroina dell'insurrezione, hai lasciato terra bruciata dietro te? Ingeborg produsse un movimento che esprimeva impazienza ed egli rafforzò la stretta sulla sua mano. Insomma, gli disse, vi dispiacerebbe spiegarmi un po' meglio la questione della terra bruciata? In parte riguarda proprio questo. Ma questo cosa? Il viaggio in Italia, con me. Ma voi avete detto che un sacco di gente. Oh sì, un uomo deve pur dire qualcosa. E in parte ha a che fare con quella lettera Robert, ma se avessi limitato la tua confessione al viaggio a Berlino agli stivali. Ridendo trionfante, riprese a baciarle la mano. Ma non sarebbe comunque servito? Riprese, perché quando i 10 giorni fossero trascorsi e tu non avessi fatto ritorno, egli avrebbe compreso. Non avessi fatto ritorno? Oh, Ingeborg, piccolo amore, piccolo Parsifal tra le donne, mia anima ricolma di cara, divina cecità e ingenuità. Ti adoro solo per il fatto di credere che si possa dipingere un quadro in una sola settimana. Ma voi avete detto, oh sì, lo so, un uomo deve dire molte cose all'inizio. All'inizio di che cosa? Di questo, dell'amore, della felicità, di tutta la gioia che ci sarà data. Vi dispiacerebbe non parlare per un attimo di tutte queste cose? Perché dite che non posso tornare, che non posso ritornare a casa? Non ti vorrebbero. Non trovi sia ridicolo, ma anche assolutamente glorioso? Che cosa intendete dire? Per quale motivo non dovrebbero volermi? E poi chi esattamente non mi vorrebbe? Ricordate che io non ho nessun loro, io ho solo Robert. Ma è proprio Robert che non ti vorrebbe. Dopo quella lettera non potrebbe volerti. Cook in se stessa non ti vorrebbe e non ti potrebbe volere. E anche la Germania, se vuoi metterla in questi termini, non ti vorrebbe o non ti potrebbe volere. È il mondo intero che ti consegna nelle mie mani. Tu sei la mia compagna ora e per sempre. Lo osservò mentre le baciava la mano, pervasa dalla sensazione che lui stesse baciando un corpo estraneo, qualcosa che non le appartenesse davvero. Tentava di venire a patti con un nuovo pensiero che, come una lancia di ghiaccio, si stava intagliando un varco nella sua mente. Comprendendo di non riuscire a emarginarlo, stava cercando di accettare il suo ingresso tra i numerosi pensieri felici e calorosi riguardanti Ingram, con la vacanza e la bellezza della vita. Ma facendo in modo che non ne ammazzasse troppi, in modo eccessivamente crudele e troppo in fretta. Intendete dire, iniziò, poi si bloccò. Che senso aveva, infatti, chiedergli che cosa intendesse? All'improvviso ne era consapevole. Lentamente, un gelo immenso, una nebbia di ghiaccio sembrò avvilupparla nella sua morsa, cancellando ogni felicità. Tutte le care, usuali, cose della vita, le cose che le conferivano calore, tranquillità e sicurezza, le consuetudini di ogni giorno che una persona conosceva e in cui si crogiolava, scivolavano via, lontano. Quindi, furono le parole che sentì se stessa pronunciare bizzarramente con voce chiara e limpida, non c'è rimasto che Dio? Non c'è rimasto che Dio? In che senso? Richiese lui sollevando lo sguardo per scrutarla. Non c'è rimasto che Dio a non accusarci di adulterio? Ingram fu profondamente colpito dal sentire le sue labbra pronunciare quella parola. Capitolo 36. Poi, mentre lui ancora parlava, Ingeborg sedeva immobile. Una volta pronunciata quella parola così deplorevole, ma anche così esplicita, non aveva altro da aggiungere. Le spiegazioni accurate di Ingram e le sue affermazioni solenni riuscivano a penetrare il suo udito solo di tanto in tanto. Decise che sarebbe tornata a casa, era tutto ciò che sapeva o che riusciva a pensare. A casa? Da Robert. Lontano da Ingram, in qualche modo al più presto. Ingram diceva qualcosa riguardo al fatto che Robert l'avrebbe rifiutata, che avrebbe persino potuto ucciderla. Non adoperò esattamente quella parola. Disse farle del male, ma che importava? Arguì con una nuova risolutezza che perlomeno sarebbe stata uccisa legittimamente. Sì, sarebbe tornata da Robert e gli avrebbe chiesto scusa, almeno quello. Dopo avrebbe preso lui la decisione cruciale. Ma come fare per arrivare a casa? I suoi pensieri turbinavano impazziti. Ingram non l'avrebbe mai lasciata partire, ma lei se ne sarebbe andata ugualmente. Ingram aveva il denaro, ma lei sarebbe partita. Quella stessa notte. Sentiva che le girandole pirotecniche formate dai suoi pensieri ricadevano poi estinte in regioni oscure e terrificanti. E mentre anche lei stessa si sentiva turbinare come una foglia catturata da un uragano, Ingram ancora non cessava di baciare la sua mano, di riversare su di lei frasi d'amore come sempre fin da, beh, fin dagli albori dell'universo, le sembrava in quel momento. Fissò la sua figura, riprendendosi dallo stupore. Coglieva le sue parole a spizziche bocconi. Ora stava dicendo che una certa cosa era pellucida, semitrasparente. Tutto sommato, gli portava alcun rancore. Lei meritava fino all'ultimo quello che stava ricevendo. Ora Ingram, e quanto volevo o non voleva dirle, non era più importante. Ora ciò che era importante era Robert. Ma come fare per raggiungere Robert? Per avvicinarsi a sufficienza per dirgli: "Eccomi, sono tornata", strisciando e coprendomi di fango. Tutti credono che io ti abbia tradito e anche tu lo credi, eppure io ti dico che non è vero e che tu mi creda o meno, questa storia sarà la tua rovina. Dovrai lasciare questo posto, abbandonare il tuo lavoro e ogni tua speranza e ora uccidimi pure. Un uomo, andava dicendo Ingram, ancora spiegando in termini appassionati ciò che era già così sciaguratamente chiaro. All'inizio deve fingere certe cose per far sì che la sua cara compagna. Certo, come ne Ingeborg in una precipitosa concordanza, sorvolando come un fulmine le parole di Ingram per ritornare all'istante sull'esame delle varie possibilità per raggiungere Robert. A lei, dalle care compagne, non importava proprio nulla. Come nascondere a Ingram il suo piano di fuga? Come far sì che in lui non nascesse alcun sospetto, che lui non la sorvegliasse in ogni momento? Nella sua mente si materializzò la versione di se stessa nella carrozza ristorante che affidava a lui i suoi soldi, che si incatenava a lui di sua spontanea volontà. Quell'azione, così paradossalmente vitale, eppure al tempo stesso così banale e spontanea, le danzava davanti agli occhi deridendola. I casi della vita. Il modo in cui trascurabili inezie operano grandi devastazioni. Gettò all'indietro il capo per emettere una breve, lugubre risata. Subito Ingram ne approfittò per baciarle la gola. Io, farfugliò lei boccheggiando, alzandosi velocemente. È stato talmente caldo per tutto il giorno, aggiunse con un breve sguardo di scusa, facendo bene attenzione a tenere il suo terrore e la sua disperazione stretti a sé come un mantello, così che nemmeno sfiorassero Ingram e non lo rendessero sospettoso della loro presenza. Perché se ciò fosse accaduto, sarebbe stata perduta, pensò aggrappandosi forte al sedile gelido. Sì, perduta. Sono molto stanca, comunicò. Di colpo egli divenne totalmente ragionevole, la pura, accomodante ragionevolezza di chi, avendo spazzato via tutta la confusione, può permettersi di attendere. Si alzò a sua volta, convenendo sulla calura della giornata, ricordandole anche quanto estenuante fosse stato il viaggio su acqua e su terra e quanto parco il rinfresco a base di fette biscottate, unica fonte di sostentamento delle ultime 6 ore. Divenne la personificazione stessa della tenerezza e della sollecitudine, le spiegò che non c'era da meravigliarsi se si sentiva stanca. Povera piccola cara, bisbigliò infilandosi la mano di lei sotto il braccio e tenendovela ferma, con una salda presa mentre la conduceva verso l'uscita e di nuovo lungo la strada, invitandola a camminare lentamente e a rallentare ulteriormente il passo quando tentava di affrettarsi affinché non si stancasse ancora di più. E vedendo un ristorante dall'aria allegra con i tavoli già affollati sullo spazio antistante, suggerì di fermarsi lì per cena. Ingeborg però rispose con voce bassa e controllata che era così stanca da temere di addormentarsi sul piatto, non poteva bere un po' di latte in albergo e poi andare a letto. La tenerezza di lui mentre concedeva il latte era quella di una benevola balia. Almeno lui però doveva cenare, mormorò Ingeborg. Non poteva metterla su un taxi e poi ritornare lì a consumare il suo pasto serale? No, non avrebbe mai affidato una gemma tanto preziosa a un tassista irresponsabile. L'avrebbe accompagnata lui in albergo e cenato, forse successivamente lì. Ma l'albergo era così soffocante, controbatté lei bisbigliando. Beh, quando lei fosse stata al sicuro in camera, forse sarebbe uscita di nuovo per cercare uno di quei ristoranti all'aperto. Mentre percorreva le vie al suo fianco e lei incedeva lenta con la mano infilata sotto il suo braccio, Ingeborg le apparve più docile e femminile che mai. Era come se là, in quel giardino, il miracolo si fosse avverato e il ragazzo cantore si fosse trasformato in una donna adulta e consapevole. Finalmente consacrata alla femminilità, un essere in cui ogni fibra della mente e del corpo andava rilassandosi nel languido sfinimento della resa. L'adorava. Quando era in quel modo, così mite, non creando alcun problema, ma accettando con un'assennatezza da età adulta del tutto inusitata in lei la loro situazione, le sue parole di conforto, i colpetti benevoli dati alla mano posata sul suo braccio, nonché ogni sua solenne affermazione. Ingra, in cambio di quella capitolazione, si prendeva una cura infinita di lei, comportandosi di volta in volta in modo protettivo, oppure possessivo, quando arrivavano in prossimità di una pozzanghera o di un gruppo di persone. Non smetteva mai di carezzarle la mano, di scrutarle il viso, di domandare e ricevere un sorriso obbediente e di ordinarle di appoggiare tutto il suo peso su di lui, così da non stancarsi troppo. In una parola, era premuroso.